Giro di vita di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Facendo questo programma mi sta venendo un'idea quasi paradossale, cioè che alla fine i cambi di vita più facili, più semplici, siano quelli di chi molla tutto e va dall'altra parte del mondo. Perché lì è come buttarsi in acqua, a un certo punto cominci a nuotare, qualcosa la farai, ti attacchi a qualsiasi cosa, ti inventi a qualsiasi cosa, ti accontenti, non vuoi tornare, insomma in qualche modo ce la fai. Magari è una stupidaggine, ma secondo me la cosa più difficile quando uno cambia vita è cambiarla qui, dove stai adesso, inseguendo una passione. Quelli che vogliono fare i musicisti, quelli che vogliono fare i pittori, quelli che vogliono fare gli scrittori. Ecco, ad esempio, gli scrittori. In Italia siamo pieni di gente che scrive e che vuole scrivere. Ci dicono tutti che ci sono più scrittori che gente che legge i libri. E allora, come si fa? Come si fa se uno ha la passione, il sacro fuoco, se scrive poesie, romanzi, racconti? Come fa a viverci? Deve stare per tutta la vita con un altro lavoro e poi scrivere di notte, scrivere il sabato, scrivere la domenica, scrivere nel weekend, mandare i libri in giro, non vederseli pubblicati? Oppure a un certo punto ce la può fare, può cambiare vita e può vivere della sua scrittura? Parliamo di questo oggi. Se ci state provando, se avete un romanzo nel cassetto, se avete un armadio strabordante che lo aprite e escono libri che nessuno vi ha mai pubblicato, chiamateci 800 24 00 24. Wendy, forse è bene che tu sappia che quando vieni da queste parti mi interrompi, mi fai perdere la concentrazione, mi distrai, capisci? E mi ci vuole un casino di tempo prima che io riesca a ritrovare il filo. Sono chiaro? Sì. Bene, mettiamo una regola nuova. Quando io sto qua e mi senti battere a macchina, o non mi senti battere a macchina, qualsiasi cazzo tu mi senti fare qui, quando mi trovo qui vuol dire sempre che sto lavorando. Allora fammi un porco piacere di non venire. Tu che ne dici, ci riesci a farlo? Sì. Brava. Allora vedi di iniziare da adesso, levati dai coglioni, eh? E questo era Jack Nicholson in Shining, che si chiudeva in questa ala dell'albergo in cui abitava con la moglie e il figlio e batteva per ore e ore a macchina e poi scriveva solo il mattino all'oro in bocca, il mattino all'oro in bocca, il mattino all'oro in bocca. Se anche voi vi chiudete da qualche parte e scrivete, però vorreste uscire, andare sul mercato, oppure se ce l'avete fatta, se siete riusciti a trovare un modo per trasformare la passione in qualcosa di più, la scrittura in una professione, 800 24 00 24, oppure sapete c'è la nostra pagina su Facebook che si chiama Giro di Vita e noi vogliamo sentirvi oggi. Io sono Achille Corea, questa è Radio 24 e questo è il programma che ogni giorno vi racconta storie di chi si è inventato un nuovo inizio. E allora fatemi sentire subito una persona che io so averlo fatto, so che ha trovato un inizio nuovo, che è Moreno Babboni, benvenuto. Pronto, benvenuto, salve. Moreno, che professione ha svolto lei nella sua vita? Io ho fatto il controllore, diciamo dei treni, chiamato più appropriatamente il capotreno, fino a un mese fa. Quindi ho viaggiato dal 75 a poco fa, insomma, sui treni, e ho vissuto in questo mio viaggio una storia. La storia dell'Italia, delle sue abitudini, i suoi vizi, pezzi di antropologia, insomma. Ho osservato il mondo scorrere nei treni e negli anni. E aveva la passione della lettura e della scrittura? No, avevo la passione dell'osservazione. Ecco, la scrittura è stato un mezzo per portare il bisogno di osservare, quindi registrare le cose che vedevo, osservavo, e avevo bisogno di riportarle, come dire, fermarle, perché non andassero disperse. Ecco. Anche se... Cosa è successo 2 mesi fa? Perché così vediamo un po' qual è l'episodio. Io scrivevo questi appunti severamente corretti da mia moglie, che è insegnante, ogni tanto allungava, come si dice in Romagna, la tozza quando sbagliavo, e scrivevo i miei racconti e poi sono diventati abbastanza da proporli agli amici, far vedere se insomma erano come dire, suscitavano le emozioni che mi avevano provocato a me nell'osservarli. E poi ho partecipato a un concorso proprio di Melog, Radio 24, proponeva nel Salone di Torino la possibilità di pubblicare un manoscritto inedito. Io ho partecipato e per fortuna insomma è stato selezionato tra gli altri con gli altri quattro per la pubblicazione. Ecco, vogliamo ricordare qual era il premio, che cosa, diciamo, che opportunità ha avuto? Beh, il premio naturalmente la pubblicazione e 50 copie omaggio, e sì, quindi la cosa che il fatto che il libro fosse pubblicato e diffuso, insomma. Insomma, il libro è in stampa e diciamo un po', descriviamolo un po' questo libro, di che cosa parla? Il libro, io sono entrato, si immagini, nel 75 in ferrovia, quindi c'era un'altra Italia, un'Italia che... Tanto che... diciamo anche il titolo del libro. Ah, certo, Controllore, c'è una pecora in treno, che è il racconto di un fatto realmente accaduto che io ho ricordato in uno dei racconti, insomma. Niente, me lo racconta, che racconto è? Cioè, uno è venuto e le ha detto: controllore, c'è una pecora in treno. Sì, perché nel passare tra una vettura e un altro stava legata in me una pecora che probabilmente stava arrivando da sud, dalla Sicilia, per raggiungere qualche condominio milanese. Era l'epoca in cui ci si portava tutto dalla terra di origine, insomma, la terra, e poi dalla vita d'origine, che era una vita di campagna, rurale, così, per andare nella città che offriva venire, industria, modernità, eccetera. E questi viaggi erano appunto portare vino, olio, spesso conigli, galline che si mettevano sulle reticelle, in delle stie, e poi addirittura, in questo caso la pecora, e poi si ritornava dopo aver fatto, diciamo, tra virgolette fortuna, portando elettrodomestici, quindi caricavano frigo e caricavano televisori, ecco, da riportare al paese d'origine. Ecco, e lei quindi ha fatto questo libro in cui racconta, sì, diciamo... questo, che è un aspetto così antropologico, poi molte cose, insomma, che veramente sono più curiose, più digeribili, più facilmente digeribili, e sono tutte le tecniche che ho scoperto io essere usate per non pagare il biglietto. E molte sono fantastiche, creative, frutto di ingegno, e quindi sono state premiate almeno col ricordo. Ecco. Siamo dalle parti di Febbre da cavallo, La mandracata per non pagare il biglietto, scendendo e salendo di corsa tutte le stazioni, o anche di meglio? No, molto di meglio, molto più raffinate, perché diciamo nel bagaglio culturale dell'Italia c'è la capacità di rappresentare, soprattutto insomma, nelle regioni meridionali c'è questa fantastica capacità di rappresentare personaggi, storie non vere, ma rappresentate in maniera eccellente, da realismo italico. Mi dica un po' la più incredibile, quella che le è rimasta più impressa. Ne ho scritte alcune, adesso non faccio. Mi viene in mente questa, di questo signore che mi incontra in una notte in un treno che noi si chiamavano Le Frecce, anzi, erano proprio denominate così, che dal nord andavano al sud o viceversa. E questo signore di origine, non so, credo fosse campano, così. Io chiedo il biglietto e lui si mette a piangere. Io richiedo il biglietto e lui si rimette a piangere. Ma quando parlo di pianto, parlo di lacrime, di un volto sconfortato, distrutto, un Pierrot che davanti a me era disperato. E dico: ma il biglietto? E lui mi dice: mi è morta la mamma. Ho capito, io sono dispiaciuto, ma il biglietto non è in relazione con questa sua disgrazia. Allora lui, mentre faceva questa sua, insomma, dichiarava questo suo lutto, apriva una sacca, che come unico contenuto aveva un quadro con una cornice dorata barocca, e all'interno del quadro, piccolino, una fotografia formato tessera, di quelle che si fanno proprio nelle stazioni, in bianco e nero. E in questa fotografia c'è una donna con un fazzolettino nero legato sotto il mento, minuta, piccolina, che veramente all'interno di questa enorme cornice. Insomma, questa donna era la sua mamma, e lui diceva: è morta la mamma, quanto è bella, quanto è bella, e lacrimava su questo quadro e pretendeva che anch'io ne ammirassi, insomma, la bellezza, e lui la baciava, la continuava a baciare, e quasi, come dire, voleva che io partecipassi a questo suo dolore. Com'è finita? L'ha fatto pagare? È finita che era così bella, dico, se questa è recitata è fantastica, e allora io ho detto: vabbè, guardi, lei è distrutto, io non me la sento di farla pagare. E in quel momento lì lui rimette dentro il quadro che era lo strumento del suo viaggio, chiude la valigia e si mette a ridere tranquillamente, diventiamo, come dire, un quarto d'ora ridendo. Le è venuto un leggerissimo dubbio che non fosse proprio un lutto? No, come dire, era così bella, così ben recitata, che meritava una sorta di premio, e il premio che lui voleva era il viaggio gratis. E io anche indebitamente sono stato un pochettino tentato e così è successo. L'ho fatto viaggiare gratuitamente. Mi dica una cosa, questo è il primo libro che ha scritto o ha fatto tentativi su tentativi? No, no, il primo libro che poi, insomma, io non avevo nemmeno questa velleità che fosse chiamato libro, ma a forza di scrivere questi piccoli appunti, poi messi in ordine appunto dalla pazienza di mia moglie, e gli ha dato un libro, insomma, così è stato definito, quindi sono contento. Perché... Sa che insomma lei creerà un po' di invidia e di gelosia da parte di gente che negli anni scrive tomi, racconti, cose. A questo non avevo pensato. Però magari è un insegnamento, bisogna prima avere una vita in cui si osservano le persone, si raccolgono storie, si mettono da parte aneddoti e poi il libro viene quasi da solo. Il libro diciamo che si è raccontato da solo, solamente portando a casa come un osso ogni giorno un piccolo pezzo della mia storia, ma quindi non è una creazione di legata a una vena creativa in questo caso, ma descrittivo, ho descritto solamente una vita a successo. Ecco. Va bene, e Moreno, noi intanto ricordiamo agli amici che ascoltano che possono chiamarci all'800 24 0024 e le facciamo l'ultima domanda. La valigia e la zavorra. Moreno, lei che se ne intende di valigie, che cosa ha messo nel bagaglio da scrittore tardivo? Che cosa ho messo? Sì, sì. Beh, fondamentale per me è la capacità di osservare, l'osservazione, e quindi innamorarsi dell'osservato anche. Ecco. E che cosa ha buttato, passando da controllore a scrittore? Essere affascinati dall'abitudine, questo è maledettamente nocivo. Quindi l'abitudine non da fa cacciare, parte no. del bagaglio. Grazie Moreno, e noi aspettiamo l'uscita di Controllore, c'è una pecora in treno e siamo anche contenti, così come radio, che da un nostro programma sia nata una nuova carriera. E se lo facessi io? 800 24 00 24, questo è il nostro numero, se avete romanzi nel cassetto, idee, storie, che ne so, raccontateci una cosa. È arrivato anche opinioni, è arrivato un SMS che dice: ma cosa c'è di bello nell'imbrogliare, non bisognava premiare questo truffatore. Lo so ma capita anche così, a volte insomma uno sceglie di farsi affascinare dalla creatività. E siamo al momento di Giro di Vita, che noi chiamiamo E se lo facessi io, in cui chiamiamo appunto una persona a cui chiedere: ma queste storie si possono replicare? Come si fa? Come possiamo fare? E ne parliamo con Stefano Bellentani, che è un editore e il fondatore del Cult Editore. Pronto? Pronto, buonasera. Allora, abbiamo sentito questa storia che insomma era bella, anni di racconti e diciamo raccolti in un libro un po' tardivamente, e però insomma la realtà quotidiana di solito è fatta anche di gente che ci prova e ci riprova e non ci riesce mai. Siamo davvero il paese in cui ci sono più aspiranti scrittori che effettivi lettori? Gli aspiranti scrittori sono moltissimi. Devo dire che molte volte è un po' il bersaglio sbagliato, perché diciamo che l'ambizione più grande è quella di pubblicare un romanzo, e di pubblicare un romanzo molte volte che non ha appunto attinenza con la realtà o che non ha attinenza con esperienze personali. Occorre un grande talento, per cui sono molto pochi quelli che riescono a pubblicare un romanzo di successo, anche se i casi in Italia ci sono, sui giallisti, specialmente, non so, Lucarelli, tanti altri, vediamo Camilleri con Montalbano, Faletti che ha fatto un giallo bellissimo, mentre invece ci sono altri campi dove l'offerta editoriale sarebbe molto superiore e invece manca il contatto tra autori e case editrici, perché ci sono altri generi, il mondo sta cambiando molto velocemente, per cui ci sono tanti saggi che sarebbero opportuni e anche che hanno una vendibilità buona, ma molte volte non c'è collegamento tra chi vuole scrivere e la casa editrice, per cui molte volte succede che una casa editrice cerca un autore per un determinato saggio di attualità e non trova l'autore, e viceversa l'autore che eventualmente c'è, però non è in contatto con la casa editrice che in quel momento ha l'ambizione di pubblicare un libro di questo tipo, per cui le persone non si incontrano. Ecco, io so che lei pubblica, noi l'abbiamo chiamato perché lei pubblica anche degli esordienti. Diamo qualche consiglio pratico, quali sono i modi migliori per proporsi o gli errori più comuni che si fanno? Appunto, l'errore più comune credo che sia quello di puntare solo sul romanzo, e il modo di proporsi più adeguato credo che sia intanto quello di avere coraggio, per cui di scrivere alle case editrici, di proporsi, di telefonare e anche di mettersi a disposizione dicendo: io ho queste caratteristiche, ho fatto questi studi, sono... ho queste conoscenze, e se avete bisogno su libri di questi argomenti o di questo argomento, ci sono a disposizione anche per altre cose, per correggere bozze, per un'infinità di lavori che sono comunque collegati all'editoria. Ecco, qui il consiglio mio è proprio quello di proporsi senza paura e senza restringere troppo il campo, ma cercando di avere una comunicazione diretta con le case editrici. Insomma, quindi anche proporsi come autore al di là del libro che uno ha già pronto, insomma, dire: io potrei fare questo e quest'altro, non so, magari ipotizzo, mandare qualche campione, cioè magari anche dei racconti, delle cose più brevi, può essere utile o no? Sì, può essere utile anche questo, ma soprattutto può essere utile specificare bene quali sono gli studi che si è fatto e dire che si è a disposizione di una casa editrice per eventuali proposte su argomenti anche e su idee della stessa casa editrice. Per esempio, faccio un esempio pratico: adesso vorremmo pubblicare un libro sull'omofobia, in questo momento non abbiamo un autore che abbia competenze su questo argomento. Ecco, in questo caso probabilmente forse ci sono anche all'ascolto persone che hanno interessi, hanno fatto studi su questo argomento e che magari sentendo quello che stiamo dicendo hanno un interesse a proporsi. Ecco, casi di questo tipo credo ce ne siano tanti, proprio perché la società cambia a grandissima velocità, i temi di attualità, temi da sviluppare, temi che meritano un approfondimento rispetto a quella che è la trattazione della stampa quotidiana, della stampa periodica, e meritano una trattazione più ampia in un libro, ce ne sono veramente tantissimi di continuo. Ecco, una curiosità, visto che poi penso che la maggior parte della gente che vuole pubblicare un libro vorrebbe pubblicare però narrativa, può essere utile anche seguire l'attualità per scrivere un romanzo, dei racconti, e magari seguire una tendenza, o è controproducente? Ma può essere utile soprattutto però se si è già in collegamento con una casa editrice, sennò i tempi si allungano moltissimo, per cui l'importante è essere già collegati, essere già conosciuti, essersi già proposti, ecco, iniziare una collaborazione. Ecco, una volta che è iniziata una collaborazione, anche libri di questo tipo che diciamo, pur rimanendo nel campo della fiction, dei romanzi, hanno però una forte attinenza con problemi di attualità, diventano fattibili nei tempi adeguati, perché ovviamente se poi passa il momento adatto il libro diventa velocemente vecchio. Sì, desueto. Va bene, io la ringrazio, era Stefano Bellentani, fondatore di Cult Editore. 800 24 00 24 per parlare di cambiare vita scrivendo. Svelti, svelti, veloci, piano, con calma, non va affrettate, Poi non scrivete subito poesie d'amore, che sono le più difficili, aspettate avere almeno un'ottantina d'anni, e scrivetele su un altro argomento, che ne so, su il mare, il vento, un termosifone, un tram in ritardo, ecco, che non esiste una cosa più poetica di un'altra, Avete capito? La poesia non è fuori, è dentro. Cos'è la poesia? Non chiedermelo più, guardati nello specchio, la poesia sei tu. E vestitele bene le poesie, cercate bene le parole. E questo è Roberto Benigni nel film La tigre e la neve, mi pare, che parla appunto di poesia e dice questa cosa: diventate poeti d'amore verso gli 80 anni. Forse anche questo è un problema, uno può scrivere qualcosa di autobiografico o la sua vita se ne ha vissuta tanta, ma una persona giovane come fa? Non è che poi arrivano 50 proposte di storie di trentenni in crisi o di ventenni maledetti fumetti e invece servirebbero storie, che ne so, di persone un po' diverse, di sessantenni artisti, che ne so, ditemelo voi, 800240024. Marina, pronto? Buongiorno. Marina, tu scrivi? Io scrivo. E cosa scrivi? Allora, io scrivo racconti e io sono educatrice nei nidi d'infanzia del Comune di Roma, quindi la 0-3 anni l'età. E praticamente mi sono resa conto, durante la mia lunga esperienza, che i bambini che avevano lo stesso nome, e se ne incontrano tantissimi, facciamo l'esempio Marco o Virginia, hanno poi dei tratti caratteriali assolutamente simili, se non identici tra loro. Una teoria lombrosiana sui nomi. Una teoria lombrosiana sui nomi, io sono una fervente ammiratrice delle teorie lombrosiane. E niente, la mia raccoltina di raccontini si chiama Names e quindi ho cominciato a scrivere, ma devo dire è una cosa strana che forse molti scrittori potrebbero raccontare. Io non ho cominciato a scrivere, è la scrittura che ha cominciato con me, nel senso che io un giorno mi sono messa davanti al computer, avevo imparato da poco a usarlo perché ero molto resistente all'informatica. E niente, io scrivevo e poi scrivendo leggevo quello che avevo scritto. Fluivano questi racconti. Quanti racconti hai scritto? Posso citarvi qualche titolo. Io ho Leon, Cristallo, Specchio, Alchimia, sono Vita, Ombra. Ma un numero, quanti sono? Adesso sono una ventina. E li hai proposti a qualcuno? Allora, io non li ho mai proposti a nessuno, anche se ci penso ogni tanto, perché poi l'ho fatti leggere, l'ha letti qualche amico, qualche persona così, e mi dicono tutti, ma non esiste, tu li devi pubblicare. Quindi ho cercato un pochino in rete, ma devo dire con molta poca attenzione, e trovando poi queste società che pubblicano gli scrittori emergenti. Mi dicono che queste società che si interessano di queste cose poi alla fine ti chiedono soldi. No, non date mai soldi, questo lo dico io senza bisogno di un esperto. Se vi chiedono soldi, no, li devono dare loro a voi oppure niente. Va bene, 800, ringraziamo Marina, 800 24 0024. Dario, pronto? Sì, pronto. Dario, scrivi? Pronto. Dario, ci sei, pronto? Sì, ci sono. Pronto. Sei in onda. Tu sei sì. Uno scrittore, un pubblicatore. Claudio, che le spiego brevemente. Io per moltissimi anni, 32 anni, sono stato agente di case editrici presso le librerie. Cioè giravo le librerie per mostrare i prodotti che venivano pubblicati, prendere ordinazioni dai librai e così. Ho lavorato per Bompiani, Adelphi, Fabio Editori, Longanese, per varie case. Poi 24-25 anni fa ho avuto occasione di rilevare una piccola libreria in una località del Lago Maggiore e l'abbiamo condotta in famiglia per parecchi anni. E facevo anche mostre di libri all'aperto, sai, col tendone, così. Ce l'ha ancora la libreria? L'ho venduta 6 mesi fa, un anno fa circa, a una ragazza che era stata commessa in libreria, quindi era pratica del lavoro. Io ormai ho 74 anni, ero stufo di stare in negozio, diciamo. E è successo questo, che alcuni anni fa ero sulla costa piemontese del lago, un cittadino che si chiama Cannobio, a fare una mostra di libri, e lì ho appreso da pubblicazioni locali, piccoli opuscoli, che durante la guerra di indipendenza del 1859 c'erano stati dei fatti che la storia ufficiale, anche scolastica, non porta, e mi è venuta questa idea, sono andato a documentarmi, ho scritto un libro che racconta di questi fatti, perché qui sulla costa... Ma un romanzo o un saggio? È un romanzo storico. Un romanzo storico. E l'ha pubblicato? Sì, a questo punto, no, volevo dire, siccome editori su scala nazionale una storia così locale non gli interessava molto, c'erano queste case che appunto ti dicono tu mi dai, allora erano, che so, 10.000, 5.000, 6.000, 10.000 euro. Io e chi ce li ha 10.000 euro per pubblicare? No, ci dica, perché siamo quasi in chiusura, come ha fatto? Chiedono il suo contributo allo scrittore. Stampano 1.000-2.000 copie, le inviano una copia però in omaggio a 1.000 librerie in Italia e poi dicono se poi arriveranno ordinazioni e le rivenderemo. E di solito finisce lì. Invece il suo consiglio qual è per gli scrittori? Il fatto che se poi l'autore ne vuole qualche copia la deve pagare. Tutto. Vabbè. Lei come ha fatto? Da me. Sono andato in una tipografia qua vicino, mi hanno stampato il libro, 1.300 copie, bellissimo, stampato bene, rilegato benissimo, si chiama Alla frontiera dell'impero, il racconto di quando c'erano qui questi fatti, Radeschi, vari... Sì, ma poi come lo vende? Cioè, questo libro... Io ho girato cinquantina di librerie qua sul Lago Maggiore, in provincia di Varese, un po' nella zona, l'ho affidato in conto vendita, diciamo, questo un anno e mezzo fa. Il risultato è che di 1300 copie ne avrò se non un centinaio, adesso l'hanno venduto benissimo, lo vendevo io nella mia libreria che avevo, e la tipografia naturalmente mi ha fatto un buon prezzo, così. E insomma, lei è un caso notevole di scrittore che passa dallo scrittore al consumatore. Grazie Dario, perché siamo proprio in chiusura e noi speriamo, di anche per quelli che non ce l'hanno fatta a intervenire, di aver stimolato qualcuno a non solo a scrivere, ma anche a mandare, pubblicare, e se ve lo rimandano indietro, se ve... niente, però almeno ci avete provato. Questo era Giro di Vita, ringrazio Alessandro Chiappini, ringrazio Fabrizio Intonti, torniamo domani, sempre alla stessa ora su Radio 24. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.